Sono le ore 18 e 12. Di venerdì 5 aprile 2024. Tempo fa sono tornato a discutere online di smart working, ma soprattutto in generale di questo filone giornalistico che non smette mai di emettere i propri scarti tossici e che ha, diciamo così, al centro una narrazione del mondo del lavoro che è sempre puntualmente quella di una committenza imprenditoriale e mai quella delle persone. Non voglio usare un termine ormai andato fuori moda come lavoratori, ma ecco, per esempio, uscendo per un attimo dal famoso tema dei nostri giovani che non hanno più voglia di lavorare, che rifiutano queste offerte di lavoro fantasmagoriche, eccetera, e anche, diciamo così, uscendo dal tema delle grandi dimissioni, io credo che poche cose come la copertura mediatica del tema dello smart working ci sia in grado di raccontarci tutto quello non solo che non funziona adesso nella cultura aziendale del lavoro, ma proprio quello che non ha mai funzionato, cioè quello che è sempre stato profondamente sbagliato. Per esempio, in questo articolo di Repubblica uscito il 2 aprile, il titolo fondamentalmente è tutto incentrato sul fatto che le persone che iniziano, diciamo così, a avere delle remore nei confronti dello smart working. Il 42% delle persone intervistate in una ricerca sostiene che il lavoro a distanza ti allontana dai tuoi obblighi professionali, non saprei come altro definirli, e in un'altra domanda viene fuori, insomma, che lo smart working ti danneggia, diciamo, le relazioni con i colleghi, e qui sarebbe addirittura il 47%, cioè viene messo come se fosse il dato per fare il titolo. E poi c'è anche un'infografica, no? Dove naturalmente si prende quella fetta della torta, ci si mette una bella leggenda sopra e si scrive fondamentalmente che c'è un crescente numero di persone che mostra almeno due parametri di insofferenza nei confronti dello smart working. Mi sento lontano dal lavoro e stanno peggiorando le relazioni con i miei colleghi. Siamo di fronte a un drammatico caso di framing, è evidente, no? Visto che se anche proprio dovessimo usare quei dati, che poi bisogna vedere come sono stati ottenuti, come sono state formulate le domande, è evidente. Comunque, anche prendendo quei dati, la notizia dovrebbe essere che la maggioranza delle persone non avverte un problema né di relazione con i colleghi né di lontananza dal luogo di lavoro. Poi l'altra cosa che trovo affascinante è questo modo di fare le infografiche, che ci viene rivenduto come se fosse data journalism. Questo è davvero incredibile, quando è esattamente il contrario, cioè si commissiona una ricerca e poi un'infografica col preciso obiettivo di poter fare un certo titolo, che è quello che si ha in testa fin dall'inizio. Questo è veramente tossico e non ha niente a che fare naturalmente col data journalism. E poi quando l'unica informazione, no, che uno dovrebbe cercare di vedere, cioè per verificare la fonte, no, è scritta in corpo 4 all'interno dell'infografica, cioè con una grossa lente di ingrandimento scopri chi è che ha commissionato la ricerca. La ricerca l'ha fatta Astra Research, e ok, uno va anche a vedere che cos'è questa organizzazione, come svolgere le ricerche, ok. Però poi c'è scritto anche il committente, perché chiaramente un minimo di deontologia giornalistica te lo richiede. Il committente è Asus Business. Io ho provato a fare una ricerca, a capire cosa sia Asus Business, mi sono venuti fuori delle offerte per manager di computer portatili della famosa casa coreana, ma cioè, dovessi dirti, non ho capito chi è il committente e chi è la committenza. Posso dire che mi sono stufato, cioè il tema dello smart working è incredibile come sia rivelatore di un grande disagio, no? Vi ricorderete la reazione del sindaco Sala? Torniamo in ufficio dopo la pandemia, e poi, messo alle strette, insomma, disse che il problema era la sopravvivenza delle tavole calde e dei famosi panini al brie a 6 euro. E il crollo del valore degli immobili che si trovano nelle zone degli uffici, ecco, che era questa la cosa incredibile, senza minimamente, per esempio, immaginarsi invece un aumento di economie, di indotti nelle zone vicine alle abitazioni, che a questo punto cominciano a diventare un po' meno dormitori, un po' più luoghi dove c'è vita e quindi c'è produttività, semplicemente perché le persone possono scegliere dove produrre. Ma poi soprattutto, ecco, c'è quest'altro dato che figura pure nell'articolo, ma ovviamente non nel titolo, e cioè che se ciascuno di noi, di questi, diciamo, 3 milioni e 8 di smart worker che ci sono oggi in Italia, quindi ancora molto pochi, avesse 2 giorni di smart working a settimana, ogni anno risparmierebbe mezza tonnellata di CO2. Quindi anche facendo la somma di questi 3,8, possiamo immaginare tutti i lavoratori italiani, se avessero lo smart working, quanto si potrebbe risparmiare in emissioni. E sono già pronto anche a rispondere alle solite obiezioni di chi dice sì, va bene, ma anche internet inquina, con la più ovvia delle repliche, e cioè che internet si usa anche negli uffici, e parecchio. E quindi no, mi dispiace, sì, sotto tutti i punti di vista, questa, come dice anche Domenico De Masi nel suo bellissimo saggio Smart Working, che consiglio a chiunque lavori in un dipartimento HR, questa è l'unica vera grande rivoluzione, e infatti proprio per questo, dato che il racconto è nelle mani della conservazione, si cerca ogni tanto di demolirlo, però è molto molto difficile farlo, anche perché le nuove generazioni oggi non accettano posti di lavoro che si svolgano obbligatoriamente in ufficio, e banalmente perché chi è nato con questo mondo già cambiato non riesce francamente a immaginare perché tornare ad una forma di medioevo. Quello che spinge ormai alcune persone in azienda a chiamare una riunione con i colleghi in una stanza una sessione di carbon dioxide sharing, CO2 sharing, cioè un momento in cui condividiamo l'anidride carbonica, perché non c'è altro valore nel fatto di vedersi che se non addirittura impegnare un luogo che poi costa all'azienda, costa un ufficio, costa alla società, costa al traffico, costa allo stress. Potrei andare avanti all'infinito. Io non sono per lo smart working necessariamente ideologico, integrale, eccetera, però l'idea di ritornare a un ambiente di lavoro dove la presenza delle persone è usata come una bandierina per poter esprimere il proprio potere, perché è questa una delle grandi leve del lavoro in presenza, è qualcosa che mi fa accapponare la pelle.